il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La campagna veneta possiede un patrimonio ancora in gran parte sconosciuto, è quello dell'edilizia rurale. Un patrimonio che ha goduto di poca attenzione in passato, spesso mal gestito, e che oggi viene rivalutato grazie alla generale crescita di sensibilità verso l'ambiente. Oggi in tanti rimpiangono la perdita di molti di questi edifici che fanno parte della nostra storia. Ad essi è dedicato un importante studio Pier Giovanni Zanetti, già insegnante di agraria, pubblicata da Veneto Agricoltura. Professor Zanetti, come vede oggi il patrimonio dell'edilizia rurale del Veneto? Qual è lo stato attuale e è compromesso oppure è ancora valorizzabile? Beh, noi abbiamo un patrimonio immenso di case rurali che spesso sono abbandonate oppure manomesse malamente, patrimonio incredibilmente prezioso, perché è un frammento del nostro passato, recente tra l'altro. Quindi sono, di solito i rustici che troviamo nelle nostre campagne sono risalenti all'Ottocento, al massimo al primo Novecento. È comunque un patrimonio preziosissimo, pensiamo al caso dei casoni. I casoni sono un tipo di costruzione rurale più povera, è l'emblema della povertà, fatta con materiali del luogo, fatto dagli stessi contadini, anzi braccianti, perché il casone era abitato dai braccianti, non erano gestori di aziende agricole, erano lavoratori per conto altrui, lavoravano per i ricchi, per le grosse aziende, per i nobili che avevano la villa o comunque le proprietà delle campagne. E il patrimonio purtroppo sta andando in malora per una scarsa attenzione, a differenza delle ville che sono state invece spesso restaurate, valorizzate, studiate. Il patrimonio invece contadino in questo campo è stato abbandonato a se stesso, nella migliore ipotesi, qualche volta addirittura demolito a causa dell'espansione urbana, a qualche volta manomesso malamente senza rispettare l'esistente, quindi senza rispettare quello che dovrebbero essere i canoni del restauro. Il restauro vale per le ville, vale anche per la stessa sovrintendenza, c'è una grande attenzione per i dipinti, per la conservazione delle peculiarità delle ville stesse, ma non c'è altrettanta attenzione per quanto riguarda la conservazione dei rustici. Invece potrebbero essere dei mezzi molto efficaci per esempio con esercitare l'attività dell'agriturismo. In effetti, con il ritorno all'attenzione verso l'ambiente oggi e anche di molte aziende agricole, si dovrebbero cercare di valorizzare certi rustici, proprio il patrimonio così com'era, però non sempre questo viene fatto o comunque non secondo i canoni che cercano di recuperare esattamente quello che quel luogo, quell'edificio era. Certamente, e noi dovremmo essere molto più attenti a conservare le peculiarità venete che abbiamo solo noi, come per esempio i balconi oscuri, come vengono chiamati, cioè quelle imposte esterne che sono fatte in una maniera particolare, un duplice strato di tavole a fibra incrociata, che non troviamo in nessun altro ambito regionale italiano e in genere da nessun'altra parte, e dovremmo essere attenti a conservarlo. Purtroppo questo ha fatto spesso della brutta fine, sostituita dagli avvolgibili, da quelle che sono le cose più forse pratiche, moderne, però meno rispettose del nostro passato. E poi il cammino sporgente, un'altra caratteristica che non viene spesso rispettata, viene annullata, cancellata. Sono due cose che abbiamo solo noi. Praticamente fuori dall'ambito regionale non troviamo queste caratteristiche, il cammino che sporge e l'imposta che si apre all'esterno, fatta in una certa maniera, appunto come dicevo prima, con il duplice strato, quelli che sono veramente scuri, cioè che non lasciano filtrare luce all'interno, ecco il nome, poi l'origine del nome tra l'altro. non so se ho, se ho risposto alla tua domanda. È un patrimonio che comunque, se recuperato intelligentemente, può essere un mezzo potente per risolvere anche molti problemi dei nostri agricoltori, che non sanno come far quadrare il bilancio perché sono in difficoltà per reggere la concorrenza ormai a livello mondiale sui prodotti materiali, e si rifugiano spesso sulla produzione di servizi, quali sono appunto l'agriturismo, la fattoria didattica, la fattoria sociale, eccetera, però che possono, attività che possono essere realizzate se si ha un fondo che ha mantenuto delle peculiarità. Cioè, il turista non si sposta per vedere cose che ha davanti casa, ma vuole sapere com'era la campagna veneta, e non certo gli interessa la volgibile, la tapparella, ma vuole vedere il balcone, il cammino sporgente e tante altre peculiarità del nostro, dei nostri rustici, e ce ne sono tantissimi peraltro, il solaio fatto in una certa maniera. Se noi andiamo anche in altre regioni vediamo che tutte queste cose qui sono fatte in maniera diversa, e quindi dovremmo essere assolutamente gelosi di questa cosa. Il patrimonio comunque, se intelligentemente, ripeto, recuperato, restaurato, dà dei risultati anche economici, oltre che culturali, economici sicuramente interessanti, come hanno fatto i toscani, come hanno fatto per esempio gli Alto Atesini, che hanno un agriturismo molto fiorente grazie al fatto che hanno conservato le cascine, i masi e via discorrendo. Cioè, sono tutti strumenti che ovviamente possono aiutare moltissimo l'agricoltura, che oggi è in affanno, in effetti non si riesce a far quadrare i conti. L'agricoltore è un'operazione, cioè un'attività molto difficile. Si vede arrivare prodotti agricoli da tutta la parte del mondo a prezzi concorrenziali, e quindi si deve un attimino rifugiare sulla tipicità del prodotto legato al territorio. Pensiamo per esempio al caso dell'Alto Atesino, dove producono dei vini che in una zona dove non si dovrebbe produrre dei vini, però riescono a farlo lo stesso perché legano il vino al territorio. Esempio Caldaro. No, vendono vini pregiati in un'area che non è vocata alla viticoltura, però hanno fatto un lavoro intelligente nel recupero, legando al territorio questa attività, cosa che dovremmo fare noi sistematicamente per difenderci a una concorrenza mondiale che non è spietata, cioè non è che vada in faccia a nessuno, insomma, cioè dire, purtroppo la realtà è questa. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Se è colpa del vino, non so. Sembra il tempo scorra lentissimo, senza dare il peggio di sé, come fosse senza peso. Un punto di vista diverso, un dettaglio anche se piccolo, può cambiare il senso di un quadro, di un cliché, del bisogno di te. Promettimi l'immenso, giura che sarà perfetto, che non importerà se poco a poco si consuma l'attimo che conta, è quello che permette di sognare. Tieni stretto il meglio di me, forse non ti sembra moltissimo, stare in superficie sbagliato, ma a volte lì puoi anche prender fiato. Promettimi l'immenso, giura che sarà perfetto, che non importerà inutile specchiarsi dove è nero e sporco il mare, ma spingimi più in là perché sia lenta la caduta. I limiti lo vedi, ci son solo se vogliamo averne. Che promette di sognare ora. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di edilizia rurale, lo stiamo facendo con Pier Giovanni Zanetti, già insegnante di agraria, che ha curato una pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Paesaggi agrari della pianura veneta. Quale zona della nostra regione ha avuto maggiore attenzione per questi edifici? Quindi dove ne troviamo un numero maggiore e anche meglio conservati? Questa è una domanda difficile. Non c'è una zona dove c'è stato un particolare interesse, purtroppo. Devo dire che a volte l'abbandono, puro e semplice, potrebbe essere di aiuto, nel senso che diciamo, gli edifici abbandonati, anche se cadenti, magari col tetto un po' malconcio, possono essere più facilmente recuperati. E questi li troviamo più facilmente nelle basse, nella bassa padovana, nella bassa veneziana, nella bassa veronese, nella bassa vicentina, dove c'è stata una minor come dire, espansione urbana, dove c'è stata una minore aggressione del territorio, una sottrazione del territorio, interessi economici di vario genere. Per cui questi immobili sono rimasti nella loro veste originaria e possono, nella maggior parte dei casi, essere recuperati. Questo è un patrimonio sicuramente interessante. Laddove invece c'è stata un'attività fiorente di altre attività economiche, industriali, artigianali, eccetera, purtroppo il patrimonio è stato spesso violentato. Penso per esempio all'alta padovana nostra, ricca, nel senso anche agricolo, nel termine, nel senso dei prati stabili, l'attività di allevamento legate appunto a questo ambiente del tutto particolare, però che ha portato alla distruzione o quantomeno alla deturpazione di quelle che erano i rustici di un tempo, che oggi se ne trovano pochissimi nella loro veste originaria o comunque restaurati con una, diciamo, con una delicatezza, con una mano leggera, come si dice. Oggi si trovano invece rustici che sono stati pesantemente ristrutturati, che hanno perso i loro connotati, per esempio negli intonaci, negli infissi, nei solai, spesso i solai legno sono stati eliminati, anche le orditure del tetto la stessa cosa, i coppi di cotto per comodità sono stati spesso sostituiti a coppi in cemento e via discorrendo, no? Per cui hanno perso la loro originaria fisionomia. Non ci sono zone oasi di particolare felicità da questo punto di vista. Qua e là ci sono, però laddove c'è stata un'attività economica fiorente la distruzione è stata sicuramente maggiore, dove invece l'attività economica non ha avuto quello sviluppo come nelle basse, il patrimonio edilizio rurale in qualche modo non è stato toccato più di tanto. Grazie professor Zanetti. Prima di chiudere la trasmissione diamo un paio di notizie. La prima riguarda la pesca. L'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura di Veneto Agricoltura ha presentato un report sulla marineria di Chioggia, cui ne seguirà in aprile uno sulla marineria del Polesine. Dal report risulta come il mercato ittico di Chioggia si confermi tra i maggiori d'Italia, con un'ampia gamma di prodotti tal quali o lavorati e un approvvigionamento costante e soddisfacente. La flotta marittima chioggiotta nel 2015 contava 212 pescherecci ed è una delle più consistenti attrezzate dell'intero Alto Adriatico, da sola rappresenta un terzo dell'intera flotta veneta. Ma va segnalato che si tratta di una flotta abbastanza obsoleta, dato che l'età media delle barche è di 28 anni. Da dove viene il pesce lavorato a Chioggia? L'88% del prodotto è di origine marittima, un 7% dalla laguna e un altro 5% da acquicoltura e vallicoltura. Il prodotto locale rappresenta l'82% del quantitativo totale che transita per il mercato ittico ed è costituito in maggioranza dal pesce azzurro. E proprio il pesce azzurro, sardine e alice in particolare, hanno costituito nel 2015 il 68,4% del pescato locale. Cambiamo argomento e parliamo di fiere. Il prossimo fine settimana in effetti è ricco di eventi. A Longarone torna la fiera dell'agricoltura di montagna Agrimont 2016, iniziata il 2 aprile e si conclude domenica 10 aprile. A Verona invece Varicena il vino, anzi Varicena il Vinitaly, che inizia domenica 10 e si conclude mercoledì 13. Ma non c'è solo il Vinitaly, sono ben tre le rassegne vinicole che si svolgono in contemporanea tra territorio veronese e vicentino. Le altre due sono dedicate al vino biologico o naturale. Da venerdì 8 a domenica 10 aprile si svolge la 13ª edizione di Vini Veri, Vini Secondo Natura, mostra di vignaioli che condividono una filosofia produttiva che va oltre la certificazione biologica europea. Si tiene ad Area Exp di Cerea, in provincia appunto di Verona, ingresso Euro 20. Da sabato a lunedì tocca invece a Villa Favorita, altro evento classico del settore, che offre un articolato percorso di degustazione per conoscere i vini naturali promosso da Vin Natur. Si svolge a Villa da Porto, detta La Favorita, a Monticello di Fara, comune di Sarego, provincia di Vicenza, anche qui ingresso Euro 20. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.